Claudio. Ehi, ciao Carlo, buonasera, per ascoltare. Sto andando con l'ICOM, microfono SM20, com'è questa modulazione qua? Allora, il segnale tuo qua è sempre 9 pieno con picchi positivi, la radio invece non è la tua solita voce roboante, rimane un po' bassina. Così va un attimino meglio, capito? Poco a poco, però è come se stessi parlando col microfono molto molto lontano in una stanza vuota, capito? Ah, ho capito, mi devo avvicinare un po' così, allora meglio va così. Sì, adesso va meglio. Ah, vabbè. Questo è un altro tipo di microfono, altra radio, insomma, non è che ci possono fare miracoli. Però già va bene, questo ICOM non è che è voluto, quindi va bene, aspetta che passiamo appena qua, vediamo un pochino com'è. Allora, ecco qua, la metto così, vediamo un po' così, meglio va? Sì, così va meglio, Claudio. Aspetta, c'è qualcuno che sta chiamando, chi è che chiama avanti? Antonio, dove sei? Non ho capito, dove sei? Allora già va bene, non ci sono problemi, ottimo per la truppa, va bene, ottimo, ok, avanti Carlo. Io Antonio invece non lo sento, cioè non lo capisco, lo sento parlare ma non lo capisco, perché ovviamente la mia antenna non è sul tetto, capito, altrimenti Platamona ci sarei arrivato. Ho capito, va bene. Ascolta, ho tolto il compressore, va meglio così o col compressore attaccato? Forse così va meglio. Poi ieri ho capito cosa è che mi dava, cioè a Gianni ho detto, Gianni non mi sta arrivando più col segnale. Io non mi ero accorto, ma inavvertitamente avevo schiacciato un pulsantino che c'è sotto, c'è scritto ATT, poi controllato, ed è un attenuatore del segnale ricevuto, quindi quello si era inserito, e quindi Gianni anziché arrivarmi 9 più 20 mi arrivava 7, capito? Ma io te l'ho detto, sicuramente c'è qualcosa inserito. Allora, così è senza compressore, però tiro un pochino, ecco qua, tiro un pochino sul Mickey Gain, 1, 2, 3, 4, eccolo qua, meglio va così, senti qualche rumore, niente? No, come l'hai regolato va meglio, si sente meglio proprio la tua voce, capito? Si avvicina più alla tua timbrica solita delle altre radio. Ah, ho capito, già va bene allora, possiamo aumentare ancora, ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5, ecco. L'ho messo a mezzogiorno al Mickey Gain, già va bene. Antonio, mi copi? Ah, Platamona, sì. Già va bene, dai, non c'è problema. Ok, rumore di alternata, non senti niente, Carlo, va bene? No, io non sento nessun rumore di alternata, Cla. Nessuno. Antonio continua adesso a non sentirlo per niente, prima lo sentivo appena, adesso niente. C'è un po' di QRM, qua mi segna 3, non è tantissimo, però evidentemente lui è al di sotto di quella soglia e quindi non riesco a sentirlo. Non arriva molto forte neanche qua, la verità, non arriva neanche, aspetta, lo metto a manettone sto coso, eccolo qua. Hai sentito la manetta, va bene, no? Sì, dalle prime prove ad adesso va decisamente meglio. Perché vedi, se faccio così che uso il compressore, guarda cosa succede, guarda. Oh, vedi che fischia va, 1, 2, 3, prova, vedi. Invece togli il compressore già va bene. Sì, lascialo così, senza il compressore. Ottimo per la truppa, già va bene, dai, ok. Attenzione Antonio Bombolone, dove sei? Cambio. Già va ti ascolto alla grande, già va bene, dai, io sto usando un'altra radio perché altrimenti qua succede un casino. Una ce l'ho già in riparazione e quindi niente, dai, sto provando un ICOM per vedere come andava il 27, sembra che vada bene. Già va bene, io ho sistemato tutto, l'alimentatore me l'ho messo su, ci sta di traverso, disturba di meno, prende più aria perché è sollevato, capito, c'ha la ventola che sento che sta funzionando bene, e così ho una radio da una parte e una dall'altra, il computer al centro, oggi mi stavo mettendo a posto tutte queste cose. Poi stamattina provando la radio ho detto che è strano, perché una radio mi dà un segnale, una un'altra. Gianni mi ha detto che anche lui l'ha avuta, dice gli dava tutti e due gli stessi segnali. Allora poi ho provato a controllare le istruzioni e ho visto ATT, ho detto attenuatore, segnale ricevuto ed era inserito, capito? Forse ho urtato come stavo spostando qualcosa e si è inserito. Poi invece adesso l'ho disinserito e in effetti se mi dà 9 una radio mi dà 9 anche l'altro di segnale, uguale. Ma stai scherzando, quella è abbastanza precisa, no, non te la deve dare di segnali diversi, va bene così. Beh, se inserisci l'attenuatore ti attenua di 20 dB, è chiaro che a Gianni ti è calato di segnale. Va bene, riprendi un attimo con Antonio, quindi lascio stare tutto così, Carlo, lascio così la regolazione, dai, e così uso anche un pochino questa, magari la modulazione è un po' diversa, ma non fa niente, il segnale mi ha detto che è uguale, quindi già va bene. Sì, il segnale è sempre uguale, 9 con 9,10, dai, mi arrivi qua, però considera che l'antenna mia è sul poggiolo, forse sul tetto magari mi arriveresti anche di più, però diciamo va bene sia come segnale che come radio. Va bene, sì, no, anche tu è uguale al K, è preciso, non cambia niente, non cambia assolutamente niente, va bene, ok, mi allontano un attimo e poi riprendo, 5 minuti e poi riprendo di nuovo, avanti Antonio se mi copi, ok, ho capito che sei nella VDVD, allora riprendi con Carlo, io già torno subito. Antonio, ti sento bassissimo, capito, ti sento basso qua, perché c'ho un po' di QRM e quindi niente, quando ti riavvicini prova a richiamare se magari ti sento. Attenzione Carlici. Millomì, Giannino. Qui, ciao Carlo, ciao tutti i tuoi amici, dai, c'è già in questo momento. Ciao, torno subito che devo andare a scendere la caldaia, ciao. Cappa, va bene. Non so chi ci sia Carlo, fammi presente chi c'è perché non ho fatto ascolto, dico la verità. Ciao Gianni, buonasera, allora c'ero solo io, Claudio e Antonio che è sulla Buddi, però io adesso lo sento molto basso Antonio, prova a parlarci tu Gianni se lo senti. Antonio, mi ascolti? Avete avuto già? Sì, io l'ascolto bene, dai. Antonio, a me le condizioni dell'antenna come sono? No, vedo che può rimettere a posto, allora piano piano. È un po' pochino rovesciata, però la seconda è già andata, comunque. Ah, si è mosso il palo o è l'antenna piegata? L'antenna non sa nulla, è solo il palo, non è in particolare, ma per sale, guarda, già è a posto. Ah, vabbè, è meglio così. Adesso già si fa, già non vedo problemi, anche così già è troppo. Va bene, Antonio, meglio così. Ah, guardi, Carlo. Mi stavo dicendo prima a Claudio, ieri ti stavo dicendo che tu con questa radio il tuo segnale era 7 e non mi ero accorto, poi stamattina ho detto che è strano, allora prova che ti riprova, ho guardato e avevo attivato il tastino che c'è sotto, ATT, che è un attenuatore di segnale ricevuto, e quindi mi abbassa di 20 decibel, capito? E quindi tu da 9 più 20 e truscia, capito? Eri a 7 e per quello, quindi l'ho disinserito, evidentemente come stavo un po' toccando, l'ho inavvertitamente schiacciato e si è attivato, hai capito? Adesso l'ho disattivato, i segnali sono come l'altra radio, sia in una o nell'altra mi arrivi sempre con lo stesso segnale. Ma io te l'ho anche detto, guarda che non abbia attivato il tastino dell'attenuatore, te l'ho anche detto, non è controllato. Perché diciamo che mi sembrava tutto, ho detto quelli non li ho toccati eccetera, e invece era inserito, capito? Non si vedeva da qua perché sono quei tastini grigi, capito? E anche spolverando magari lo tocchi senza accorgerti, anche a me succede a volte che tocco qualche cosa spolverando e poi vabbè, lo metto a posto perché so cos'è. Adesso ti ho risolto il problema, qual era? Esatto, perché tutti gli spezzoni che ho usato, ho capito, dalla diciamo il miscelatore d'antenna, li ho controllati tutti col tester, capito? Fatti bene, sono stato attento, capito? Li ho rifatti tutti nuovi e quindi ho detto che è strano. Invece poi non era quello. Adesso mi ho sistemato un po' la postazione, ho una radio da una parte e una dall'altra, capito? Quindi giro la levetta A o B e mi seleziono la radio che voglio. Ho capito, anche io ce l'avevo così. Poi da quando me l'ha tenuto ho già ricordato tutto il barucco. Non faccio altro che svitare un piede e attaccarlo dall'altra parte, non c'è nessun problema. Tra l'altro ho finito di avvitare e svitare anche quelli che erano difettosi, qui adesso stanno funzionando bene. Sì, esatto. Ebbene Antonio, dove sei arrivato? Adesso ti sei abbassato notevolmente. Anche io adesso non l'ho sentito. Ho visto la lancetta muoversi, ma capito, la radio non passa col QRM. Breco 10? Sì, arrivato sei anche tu Gianni. Buonasera a tutti. Entrata a gamba tesa così veloce. Mi date un controllino sia di radio che di segnale. Ho visto, sono salito poco fa a controllare l'antenna e tutto a posto. Volevo sapere se c'era stata qualche variazione. Da me sta arrivando 9.30, radio Super 5. Tranquillo, tranquillo Gianni, è lo stesso segnale di sempre. Bene meda, dai. La mia piccola boomerang si difende bene nonostante le raffiche di zio maestra, dai. Tutto bene col che finisce bene, dai. Esatto, dai. Vabbè, già è robustina come antenna, anche la mia non si è mossa niente. Va bene che io già ce l'ho in basso, è un po' riparata. Però diciamo il suo dovere lo fa, capito? Mi ha tirato raffiche furti, diciamo, come lui, anche ieri sera. Volevo fargli il video ieri. Cazzo, sembrava una canna da traina attaccata alla barca. Mai visto l'antenna piegata così. No, la mia non si piegava più di tanto. Io sono sceso a guardare e non si piegava più di tanto. Sì, un pochino sì, ma non più di tanto. Dipende anche dal tipo d'antenna. Eh certo, vabbè, strutturalmente sono due cose completamente diverse. Dai, ha resistito anche stavolta, dai. Io Antonio lo sento, va e viene in mezzo al QRM, boh. Comunque saluto anche a lui e Ciccia, sicuramente sarà in barra mobile. Antonio mi copi, cambio. Santiago 3 qua in stazione, radio molto bassa, però già ti ascolto, dai. Vediamo se Carlo ti tira fuori. No, io non lo sento per niente adesso. Prima un pochettino lo sentivo, adesso nulla. Antonio, Carlo non ti sente. proprio non ti scuccia. Ancora ora mi senti, cappagatta? Come ti arrivo con la zona? Tu qua sei Santiago 3, Santiago di 3. Adesso Santiago è aumentato a 5, però la radio è bassa. Cappa, va bene. Carlo, riprendi. Io ero zitto, ho detto, magari sta parlando Antonio, che non lo sento, ho capito. Ma stasera aveva messo pioggia, ma qua neanche una goccia ha fatto ancora, è tutta asciutta la strada, stavo guardando quello dalla finestra, diciamo nuvole ce ne sono in giro, ma ancora niente, dice che arriva un'altra perturbazione, dovrebbe piovere tutta stanotte, e tutto domani, capito, e poi migliorerà domenica sera. Che casino questo tempo, guarda. Non rimbussi una vita, va bene, l'interessante è che mi faccia scendere col cane dopo o anche piove. Però freddo non ne sta facendo, ci sono 12-13 gradi, capito? È accettabile la temperatura, se pensiamo che siamo a febbraio, capito? È abbastanza mite come temperatura. Importante che non faccia danno se piove, capito? Che riempia bene questi cavoli di bacini delle zone nostre, Bidiginzu e quello che c'è a Uri, come si chiama? Adesso non mi viene quello lì. Il Cuga. Ecco, bravo Gianni, il Cuga, sì. Cappa, mi sentite? Sì, Antu, vai. Cappa, buonasera, allora. Com'è qua? Santiago 7 e mezzo, dai. È buono, dai. E gli altri mi sentono? Santiago 7 è qua dalle mie parti. Sì, prova Carlo, lo senti Antonio? Prova Antonio, un altro passaggio. Questo Carlo. La voce va e viene, capito, ma è la mia antenna Antonio, non ti preoccupare, già stai andando bene. Allora arrivi perché ce l'hanno sul tetto, capito? Io sono più in basso. Qua Santiago 7, Antonio. Arrivo anche da te, mi. Ok. Già funziona, già funge. Io un segnale in più ti ricevo, dai. Vabbè, già va bene, già. Mi interessate che ti senta. Ragazza, vai, già funge. Anto, dove sei arrivato? No, adesso non è in macchina. E dov'è? Penso che sia arrivato a casa dell'amico. Ah, ho capito. Sono fissa. Vieni, metti un lignanetto piccolo, Anto, è alla grande. Già, non credo, via. Cappa, già funge qua. Ma chi c'è anche quel cuoco mano di Gianni Profetta? Noi! Questa voce è la Rockets che c'hai stasera. Oggi uno mi sta fischiando. Io di radio ci ho tante, noi poi ci fate darci più la matessia, voi siete abituati. Basta mi sentite con un'altra radio, ma è più che ottima questa, la timbrica è diversa ma va bene. Ehi! C'è un avviso dalla tua modulazione, sempre per le mie orecchie, attenzione, modulazione, il suono della radio è completamente diverso, molto la sento molto robotica come voce, comunque il segnalone è sempre quello. Oddio, ti senti? Già ti sento, non sono cucciotto. Quindi arrivo anche da te, meglio così. E sai il concetto che se arrivi qua non c'è bisogno di chiedere i controlli agli altri, Perché chi arriva qua in macchina dove sei tu, ma non stai andando bene, stai andando meglio di bene. Papà, no, adesso non sono in macchina, sono stazione fissa. Stazione fissa? Un bel basso mi arrivi allora, 6-5. No, arrivo presto. Pensa che dall'altra parte, nella zona più giusta, quindi va bene. Va bene tu, ma se hai fatto danno all'antenna, cosa ti devo dire? Non lo so. Cos'è che intende robotica? Fammi comprendere, io mi ho messo le cuffie, dai, va bene come. La timbrica è diversa, ma è un ICOM questo. Non è un cable, non è una radio per la 27, però va bene. Si può usare. Io ti sto dicendo, per come ti ascolto io, rispetto alla maggior parte delle radio che ascolto, la trovo come suono un po' robotica, capito? Qua andare così a vedere che ho inserito il compressore. Meglio va. Ho sempre robotica. No, hai peggiorato qua. Poi ti ripeto, questo è per come ti ascolto io, attenzione, con la tua parlante esterno. No, il compressore va, la peggiori, secondo il mio punto di vista. Più che robotica è metallica. Metallica è la definizione più giusta. Tutto fuori. Vabbè, ma devo usarli a queste radio. Adesso ho abbassato leggermente il mic e ho tolto il compressore. Così come va? Meglio? Adesso è migliorato leggermente, sì. Prima era troppo metallica. Ti ripeto, sempre per le mie orecchie. Va bene, dai, la lasciamo così. Però io questa radio devo usare perché 27 non ha mai camminato. Di modo che si usi. Questo è un 575H della Icom. Una grande e bellissima radio. Non ha niente a che fare né col 440, né col 140, né con niente. Questa è una radio amatoriale, ma è di una bellezza che non viene bene a dirlo. Molto, molto bella esteticamente, molto bella. Ok, vabbè, comunque, il microfono sto andando col microfono suo della Icom, quindi non è un MC60, però già spinge, dai, già va bene. No, adesso sei migliorato, dai. Prima era molto, molto metallica e robotica la voce, adesso va decisamente meglio, dai, è migliorato rispetto al primo passaggio, dai. Questo per quanto riguarda sempre il sottoscritto, poi bisogna sentire come ti ascoltano gli altri. E gli altri mi dicono che non ha niente a che fare col K, ma non sono paragoni da fare, ve lo dico per esperienza maturata, perché gli come IAE sono per la 27 non vanno bene. Non vanno bene, oddio, escono, non è che non escono, si fanno sentire, ma non hanno la timbrica della Kevod, quindi può essere solo quella la pendenza che c'è da una radio all'altra, però vi dico che come ricezione sembrate qua vicino a me, senza colonnina esterna, senza niente, è una favola, anche perché c'ha un menu, un sottomenu, cioè è una radio amatoriale, non ha niente a che vedere con il K che non va nuda. Ok, Gianni, a te. Vabbè, ma comunque è comprensibile, adesso va molto meglio, ha ragione Gianni. Va molto meglio, come l'ha regolata si sente meglio, dai. Prima era citofonica alle mie orecchie. Vabbè, dai, qualche regolazione, tenete conto che io questa no, in AM non l'ho mai regolata. Mi ho messo le cuffie, me la sono regolata da solo. Adesso ho fatto l'ultimo accorgimento con voi, ma già va bene, non c'è problema. Infatti questa ne va 100 pieni anche in AM, adesso l'ho regolata a 20 watt e 40 modulati perché c'è anche i picchi positivi. Carlo Magno, riprendi, che io sto seguendo un attimo il riscaldamento, ma sono qua comunque. Sì Claudio, io controllo, te li ho dati prima e sono gli stessi che ti diceva Gianni Rubrofetta, perché anche io inizialmente ho detto non ero abituato a quella timbrica di microfono, però come l'hai regolata adesso già va bene, lascia così, non toccare niente, va più che bene. Noi abituati all'altro microfono è ovvio che c'è la differenza, non può essere sempre quello. È giusto far girare, se tu ne hai di radio, farle girare, e quindi va bene così. Vai Gianni. E l'altro microfono da guerra. Ah, va bene anche questo qui, dai. Non è da buttare in cesta. Scusate ragazzi, devo fare una cosa con estrema urgenza, quindi vi devo lasciare, dai. Ci sentiamo un altro momento, ok? Ciao ragazzi. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Ciao Rubrofè, ci ascoltiamo più tardi, dai. Va bene. Ok, e ne hai di radio, io ho le radio HF Baracchini. Già ce n'è, ma io preferisco far girare anche queste, perché tanto se la faccio girare in banda laterale è normale, la uso in 6 metri, questa è 10 metri, però il 27 non ha mai girato, visto che funziona bene, c'è una bellissima ricezione, insomma, usiamo per qualche giorno questo, almeno bastano macchine che va in capo. Mi allontano un secondo e arrivo subito, vai Carlo. Sì, fai pure Clano, già siamo qua con Gianni. Dicendo, il vento dalle parti tue ne ha rovesciato di cazzoni e cazzonetti. Sì, allora, ne ha addrizzato tutti quelli che c'erano nel mio condominio, li ho messi, li ho addrizzati, li ho aperto tutti, li ho aperto i coperchi e ho volato tutto quanto, un casino ha fatto. Lascia perdere bottiglie nella strada, bottiglie in plastica, di tutto e di più. E niente, l'ho addrizzato io qui, c'era la plastica. C'era la plastica e la plastica noi la dobbiamo mettere fuori dal cancello. E cosa mettevi? La busta fuori dal cancello così che volava. Ho preso e ce l'ho buttata nel cassonetto dove c'è la plastica, l'ho buttata. Hai fatto bene, hai fatto bene, io lo stesso. Avevo un po' di plastica e nella mia via hanno lasciato i cassoni, quelli grandi. Sono andato là, plastica, e ho buttato tutto lì. Era vuoto, capito? E tanto mica la plastica non fa odore, la puoi buttare a qualsiasi ora, capito? Non è umido o cose del genere, capito? E se no ti tocca stare con questa plastica dentro casa, che è ingombrante, bottiglie, buste, tappi, insomma, io non ne faccio tantissima, però era da un bel po' che avevo la busta piena, ho detto devo stare a aspettare a loro, ho preso e l'ho buttata nel cassone. Ma io sto facendo anche la raccolta delle lattine, dei barattoli, e tutta quella roba lì a parte, come mi hanno detto al comune, ho telefonato per vedere se dovevo metterle in mezzo alla plastica, mi hanno detto no, assolutamente, noi li ho divisi, la plastica da una parte si buttano nello stesso cassonetto, però noi li ho divisi. Ho capito, no, io di metallo così poca roba faccio, qualche mi può capitare qualche i tappi della birra, cose così, ma sono due o tre, non li butto indifferenziata quella. No, io qualche scatoletta di tonno, qualche scatola di fagioli, perché mi faccio tonno, fagioli e cipolle, ne piace un bel. Sì. E poi diciamo giù in garage lo stesso, una diciamo un piccolo contenitore dove butto, ma lì sono lì qualche pezzo di ferro c'è, però ci sono batterie, cose così, capito? Non so neanche dove buttarle. Allora, le batterie c'è un contenitore a parte per buttarle. Se tu puoi dire vieni vicino a casa, come si chiama l'altro, nonna Isa, da nonna Isa c'è il contenitore. Sì, infatti quando ce ne sono un bel po' di batterie le prendo, le metto in una bustina, le butto, solitamente andavo anche a coso, a Città Mercato, dai, chiamiamolo così, perché prima era Auchan, adesso non è più Auchan, eccetera. E anche lì ci sono i contenitori per le batterie usate, quelle che insomma sono esaurite, e le butto lì quando ne ho un bel po' però. Ma lo sai che lì non mi piace più andarci, da quando hanno tolto Città Mercato, Auchan, come lo vuoi chiamare, non mi piace più andarci, prima andavo e trovavo di tutto, adesso c'è solo roba alimentare, ti perdi, ci sono mille prodotti, non capisci più cosa stai andando. Lo so, adesso è un centro commerciale, è giù è Conad e poi ci sono tutti i negozi che tu sai, ma hanno decentrato tutto lì, quindi il comune speriamo che metta a posto le strade adesso, visto che molte le sta rimettendo in sesto, meno male. Ho visto che anche a Predaneta stanno aggiustando tutto, da quando hanno fatto gli articoli e cose, stanno aggiustando tutto. Meno male, perché sono strade molto trafficate, capito? Soprattutto nel periodo delle feste di Natale, fine settimana, capito? E poi lì c'è la vita anche notturna, perché è pieno di locali dove ci vanno molti giovani, capito? E quindi alla fine è il comune che se ne deve occupare, capito? Non è una zona industriale più, ma è una zona commerciale della città quella lì. C'è qualcuno che vuole entrare che ha sopravvoluto, avanti chi vuole entrare? No, vi ho salutato, vi ho detto che vi rimango un ascolto, ci risentiamo. Adesso tu c'è picchi di 9 in macchina. No, sono stazione fissa. Adesso sei a picchi di 9. Ma posso dare. Oh, è strano, perché prima arrivavi 7:30, dai, quasi 8. Adesso sei a picchi di 9. Vabbè. Vabbè, dai. Sta migliorando, deve essere come predominità migliore. Cavagalla, va bene, Antu, in macchina stai andando? Lo Carlo non ti sente. Carlo, non senti Antu? No, non lo sento per niente, non lo sento per niente. No, io ho spostato un pochettino l'antenna, non ieri, avantieri, perché ho cambiato il filo, eccetera. E non lo so se è quello. Antonio non ti sente per nulla, per niente. Carlo, che cavo hai messo? Quello H150. Io ce l'ho H100. Ma già è buono, diciamo, è più o meno come l'RG58 come spessore, dai, non è grosso. Poi di quello grosso ne ho di 200, cos'era, 213, quello, non mi ricordo, 223, di quello ne ho roba di 25 metri giù. È 213. Il 213, quello che ho tolto dall'altra casa, capito? Era 25 metri, non l'avevo tagliato, ne utilizzavo circa 20 metri, 21 metri, però avevo il posto per tenerlo, capito? Era arrotolato nel terrazzino, ma non dava fastidio a nessuno là. Quindi quando sono andato via ho tirato via tutto, l'antenna e il cavo, e adesso ce li ho giù in garage. Ma quel cavo lì grosso a me non piace, perché quando lo metti negli strumenti ti muove tutto, un casino, è pesante. Sì, esatto, è molto grosso, non flette molto, e quindi a meno che non hai un posto dove, per dire, lo colleghi direttamente a un miscelatore d'antenna, capito? Allora sì, poi da lì ti mandi gli ispezioni morbidi e così riesci a gestirlo meglio, se no è difficile quello lì da muovere, capito? Ti sposta tutto, come hai detto tu. No, ma l'ispezione devi mettere uguali, perché sennò cambia l'impedenza pure, capito? Se lo metti di spessore grosso il cavo e l'ispezione lo metti fino, l'impedenza cambia. Quello già è vero, e allora faccio bene io usare, insomma, questo sottile, così almeno ti fai anche gli spezzoni sottili, che sono più pratici e malleabili soprattutto, se no se li fai grossi buonanotte ai pezzi. E quello non ha niente a che fare con l'RG58, è un cavo buono, anche quello che c'ho io, è un cavo buono, costa molto di più. Ha voglia, c'ha il doppio strato, c'ha la retina e poi c'ha tipo la carta spagnola, capito? Sì, è vero. Io l'avevamo preso io, Tonino e Franco California, l'abbiamo comprato una matassa da 100 e ce l'abbiamo diviso, l'aveva comprato da un amico che l'aveva comprato per piazzarsi l'antenna e poi non l'ha mai piazzata perché il tetto c'ha una spiovenza che non le consentiva di salire. Esatto, Antonio, strano, ma lo ricevevo in macchina dappertutto con quell'antenna. Oggi in quella zona Budi, o sono negativo io per quella zona, ma mi sembra strano. No, io all'inizio lo sentivo benissimo, proprio bene, vabbè, in linea d'aria era vicino a casa. E poi piano piano, come si è alzato, si è abbassato. Ma adesso dov'è? Rientrato a Sassari o sempre fuori? No, non penso che sia arretrata ancora, penso che sia lì. Anto, ci sei? Ah, ma dopo aver chiuso, da un amico, magari hanno chiuso le radio, stanno parlando. Comunque, io già lo sento, però vabbè, io per quella zona sono a posto. Vabbè, cosa devi fare? Se non, se non si attrinza, devo mettere l'antenna come si deve lì e basta. È un bel lineare. E infatti se uno ha la possibilità deve mettere un'antenna sul tetto, ma un'antenna come si deve, capito? Ma senza andare a spendere tanti soldi. L'antenna che sto usando io, se tu la metti sul tetto, rende bene, Gianni non ce l'ha, è lo stesso, il profeta, hai visto come arriva, forte forte, sia di segnale ma anche una buona radio. Ma magari c'è anche la radio che è il baracchino che dà un derivato, capito? Quindi anche quello, tante volte anche quello lì. Sì, esatto, però per esempio io questa l'ho usata anche oggi, ho fatto qualche DX, insomma, e ho visto che esce, capito? Anche su quelle altre frequenze, sono andato in banda laterale e ho visto che esce anche bene, sono arrivato con Santiago 7, capito? Le Canarie già. Vabbè, comunque è una soddisfazione, un antennino. Sì, diciamo che le prime antenne che tu metti sono quelle lì, e poi migliori sempre di più, no? Sono spese che fai in più, perché se tu prendi direttamente un'antenna come si deve non fai più la spesa, invece cominci a comprare antenne qua, antenne là, e spendi più soldi che comprarne una come si deve, via. Esatto, io perché qua non ho molte possibilità adesso, poi vediamo più in là, se dovessi avere la possibilità già la metto sul tetto, ma ovviamente se arrivo sul tetto vado direttamente con un'antenna buona, capito? E la prenderò nuova, capito? E adesso vedo però quello che si può mettere. E quella che c'è perché non va bene, cazzo. Bisogna vedere lo spazio che c'è, capito, per metterla. Io ho quella Smartec, la J-Pol, e poi ho anche l'SD27, che è un dipolo, che lo puoi mettere in verticale, capito, e quello lì pompa lo stesso, va bene lo stesso, perché prima della J-Pol avevo quello lì e Roberto Quadrato, per capirci, mi diceva che avevo lo stesso segnale di prima, capito? Anche dopo, che poi ho messo la J-Pol sempre con lo stesso segnale e la stessa radio, usciva forte anche quella. E quella l'ho pulita, tutte e due le ho pulite bene perché c'era un po' di... sembrava calcare, attaccato, capito? Adesso c'è l'alluminio bello lucido, sia una che l'altra le ho messe a posto. Lucido, io lo sai come le pulisco, la lana d'acciaio e il CRC, mi spruzzo il CRC e la lana d'acciaio glielo faccio, lo fa lucida. Esatto, io ho preso una lana d'acciaio di quelle sottili, capito? E anche io ho usato un prodotto del genere, bello, pulito, capito? L'alluminio, sembra nuova, sia una che l'altra. Pure nel prossimo straccio è tutto il nero, tutta la scorcizia, è ossido che ci forma, salsedine, è ossido, anche la salsedine, devi non credere che la salsedine non arriva. Ebbè, col maestrale lo credo che arriva, capito? Il vento porta di tutto, capito? E poi si forma, si attacca di tutto là, prima magari si inumidisce, poi le polveri, si attaccano tante cose, poi l'acqua piovana, capito? E quindi col tempo, adesso io ce le ho pronte quelle lì tutte e due, però vedo un po' cosa mi faranno mettere, se me lo faranno mettere, capito? Infatti. Ma penso di sì, caro, se non te la puoi mettere anche dove hai messo quella di antenna, te la metti lì e la fai uscire fuori dal tetto. Quella lì, basta che tu gli metti un palo grosso più lungo, esce fuori dal tetto e c'è a posto, c'è andato. E infatti poi alla fine adotterò, se non me la fanno mettere, farò in quel modo lì, capito? Anche se è un po' mastodontica, non mi interessa. Allora se mi dicono qualcosa gli dico allora me la fate mettere sul tetto e la metto là, e tanto non è che tutti i giorni sul tetto, no? La metto e finché non si rompe non la tocco. Vabbè. comunque io non mi sono pentito di aver messo dove tiranti. Si mi dice ma che era esagerato, però vedi, ha resistito bene al vento, ma mi... Ce l'hai tanti anni lì adesso, lo stesso anche Marco, io l'altro giorno la stavo guardando col vento, ma non si muove molto, è bella come l'ha sistemata lui, poi non è altissima, capito? Esce sì fuori dal tetto, però c'ha tutti i radiali che secondo me la stabilizzano anche bene l'antenna e i radiali che c'ha. Sì, ma è in palazzo è alto, quindi non è che devi rimettere chissà quale palo. Molta gente è fissata, deve mettere pali alti, ma se non hai ostacoli, il tetto, il palazzo è alto, quindi chi te lo fa fare mettere pali a rischiare, mettere pali molto alti. C'era un altarino, ce l'aveva 12 metri il palo alto, ma no, vabbè, lui era in campagna. Va bene. Se hai la possibilità di, insomma, di avere un tetto come lo avevo io prima, lo stesso, non è che avevo messo un palo alto, cioè avevo un palo di 2 metri, capito? Potevo anche sollevarlo perché era telescopico, però ho visto che era bello stabile, siccome l'antenna era più di 7 metri e 20, e alla fine ho detto se metto un palo da 4 metri più alla fine sale a 10 metri sopra il tetto, avevo tutto lo spazio che volevo lì, non avevo neanche palazzi a fianco, era il più alto, isolato, capito? Vedevo tutto da lì, quindi non, quella la potevo mettere anche a 1 metro, capito? Funzionava lo stesso. Infatti, ma è un'esambidura, se non è che ci sia bisogno. Natalino aveva una bella posizione in campagna e arrivava da tutte le parti da lì, aveva una bella posizione, l'aveva alzata perché lui praticamente per andare in campagna c'era una campagna, cioè c'era una discesa, rimaneva affossato, capito? Mi sa che ce l'aveva dalle parti di Montebianchino o sbaglio? Sì, dalle parti di Montebianchino. Forse San Francesco, quella zona lì. Praticamente non è verso San Francesco, ma devi prendere la via parallela e vai verso il sud, dove ci sono quelle altre antenne grandi, le hai viste quelle direttive? Ah sì, ho capito, e lì c'è una bella zona, quella è anche alta come zona, lo credo che ci vai, arrivava dappertutto. Però lui era praticamente molto più in alto e in una traversina che si scendeva giù e via degli Ulivi, mi pare che si chiamava una cosa del genere, c'era via Mirto, via degli Ulivi, tutte quelle zone lì. Ho capito la zona, ho capito, è una bella zona anche quella, peccato. Vabbè, Natalino purtroppo non c'è più. Pazienza, dopo che aveva avuto tanti problemi, dov'era? Era riuscito a mettere l'antenna sul tetto e aveva messo la Sirio, come si chiama quella lì? Quella senza radiali, dai. E usciva bene anche con quella. La Game Master. Così la Game Master, bravo, non mi veniva. E comunque l'aveva messa bene poi alla fine. Eccomi, sono rientrato. Avanti Claudio, la Jägermeister, diceva Claudio. Sì, chi sono la Jägermeister, per carità. A Eugenio gliela mandata in corto, piega che ti piega. Prima io, la cosa che mi preoccupa è un'antenna da quasi 200 euro fatta in quella maniera. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè veramente è fatta, chi l'ha progettata da schifo, veramente. Claudio, allora l'antenna usciva bene perché come segnali a me mi davano sempre segnali alti, dico la verità, però praticamente è la struttura dell'antenna che non serve. Io l'ho riparata 3 volte, poi la terza volta l'ho regalata a Franco California, perché mi sono stufato e ho messo l'antenna nuova, abbiamo piazzato l'antenna nuova e questa, grazie a Dio, va bene. Sono antenne sperimentali. Comunque Marco Scorpio me l'aveva detto già, io non avrei preso l'antenna così, perché quelle poi si vetrificano e si spaccano. Ma l'avevo detto dall'inizio, ma dice, io per esperienza lo so, si vetrificano e si spaccano come il vetro, e cosa si spacca? C'è stato, io mi ricordo, un dibattito quando io abitavo ancora a Carbonazzi, proprio tra la Game Master, che uno di quelli del dibattito era Giulio, tra la Game Master e la Mantova. E ragazzi, cioè, è un'antenna che costa 200, io non sto parlando della resa, Gianni, perché come resa è un'ottima antenna, sto parlando come è stata costruita proprio malissimo, che non ha nessun rinforzo, niente. Cioè, a Sandro Tigre, a Balai, gli è durata una settimana, l'ha spezzata in due. Di cosa stiamo parlando? Cioè, io per 30 anni ho usato la Mantova, sono stato forse uno a Sassari dei primi che ho comprato la Mantova 1, mi è rimasta 15 anni sul petto, poi è uscita la Mantova 5, ho comprato la 5 e ho tolto la 1, ma sempre in perfetto stato. Ok, e 20 ne ha preso, non si è mai rotta, mai ho perso un radiale, mai nulla, capito? Cioè, quello è il problema, come è stata costruita l'antenna? Io non critico la resa, l'antenna è ottima, è una buona resa, ma è come è stata costruita che fa schifo. Perché io quell'antenna l'ho vista alla fiera, quando l'hanno messa in vendita, l'ho vista alla fiera, il tubo cos'è? Tubo di elettrico, sembrano canalette elettriche. Effettivamente il venditore mi ha detto, non sembrano, ma sono canalette elettriche, capito? Non è un tubo in fibra di carbonio come la canna da pesca o il resina fatto bene, no, è un leggerissimo tubo di copertura del filo centrale che c'è all'interno, cioè una stronzata, 190 euro di antenna, ma per carità. Sì, anche Gianfranco che diceva, la mia non si è troncata, la mia battono 20 frutti, ma mi si è spezzata pure. Ma perché non ha nessuna resistenza al vento? Nessuna, io l'ho vista quando l'abbiamo piantata la prima volta da te, io l'ho vista che c'era ancora Natalino, io l'ho vista come l'ho vista proprio da vicino, poi l'avevo vista in fiera, ma non è che ci ho fatto così caso, ho chiesto informazioni, visto non aveva radiali poteva essere anche interessante perché fa anche una bella copertura, fa bene il 28 quell'antenna, ha un'ottima resa, ma è la costruzione che è impressionante, non puoi tu comprare un'antenna a 200 euro e durarti da Natale a Capodanno, non esiste proprio, capito? Tu, quella che hai preso è una Mantova, è simile alla Mantova, quella è la Mantova, strutturata bene, è bella e robusta, così come quella che c'ha Carlo, la Smartech, è un'ottima antenna, ma ottima veramente, quella dove l'ha piantata Carlo che era preoccupato, gli ho detto vai tranquillo, l'ho sperimentata io, e se io ti dico di prenderla, prendila tranquillo e sereno, che è un'antenna che se ne mette in tasca pari, a parte con una 7 ottavi, ho fatto le comparazioni con la Mantova, guadagnavo quasi tre segnali da una all'altra, quindi c'è una resa allucinante, però è strutturata bene, a prescindere dalla resa è strutturata bene, la Game Master è un pezzo di tubo di plastica. Infatti, quella lì magari non si può mettere manco una struttura di metallo, perché poi non va bene. Bisognerebbe fare la struttura nuova in cose di una fibra di vetro, qualche cosa del genere, perché quelle lì sono antenne che si fasciano subito. Io tre volte l'ho riparate, la prima volta mi ha detto forse le misure erano sbagliate, io ho controllato le misure, l'abbiamo fatta a misura, l'abbiamo fatta rientrare un po' in dentro, l'abbiamo aggiustata bene, resina, ghillo, ghindasso, e dopo di tempo, dunque questo gruppo di vento me l'ha giocata addorra e alla fine poi dopo stare sempre sul tetto, ti dico anche cosa, ci vedono sempre sul tetto, lì ci sono appartamenti del, non sono mansarde ma sono attici e sono molto adiacenti al tetto, quindi possono rompere le balle. Certo che sì, ma Eugenio non gliel'ha spezzata, con tutto che lui è in un posto molto molto ventilato, gliel'ha mandata in corto, ha mandato in corto la bobina, capito? Quindi ancora meglio, come fletteva,